Mediterraneo. Guardò il palco, le luci, la gente cercando un aeroplano. Sono cantante di blues, per me la vita dura un istante e poi va bene così. Quando mi perdo in qualche ristorante, sensazione unica, perché la musica ti prende anche l'anima, mentre il cuore sta spingendo in America. Male. Non posso darti, credimi, una vita nuova.